24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 17 minuti e 55 secondi, le 8 e 18, va, inizia la terza parte di 24 Mattino, al microfono sempre Simone Spezia, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, e Maria Latella, ciao Maria, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici e buon inizio di settimana, che sia un inizio di settimana pieno di energia, visto che comunque con una buona notizia siamo partiti oggi. Una cosa che devo dire mi fa particolarmente piacere, questo team di ricercatori e di ricercatrici che prevalentemente ricercatrici ha individuato il virus. 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio. Come si diceva, non è il primo team al mondo a isolare il virus, è comunque uno tra i primi, l'hanno già fatto Cina, Australia, Stati Uniti e Francia, però è sicuramente una cosa importante. Siamo nel gruppo di quelli che l'hanno fatto per primi. Di testa. Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile e commissario a questa emergenza coronavirus. Buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni, Borrelli, eccoci. Buongiorno a voi, eccomi. Maria, prego, inizia tu, vai. Buongiorno Borrelli. Dunque, oltre alla buona notizia del fatto che abbiamo dei ricercatori, lo sapevamo, ma fa sempre bene avere conferme su questo terreno, dei ricercatori di primissimo ordine, io vorrei capire da lei in che modo si sta sviluppando l'azione di controllo e di verifica della diffusione del virus in Italia. Quello che abbiamo fatto noi, cioè portare via da Wuhan gli italiani con un volo militare, l'hanno fatto anche altri paesi, la Germania, anche lei con un volo militare, la Francia, sono già in quarantena. Dunque, ai nostri connazionali che percorso viene offerto? E a quelli che girano normalmente per le strade e per gli aeroporti, che consigli diamo? Allora, noi stiamo facendo un'azione di prevenzione molto forte. Il Ministro della Salute ha sospeso i voli da e per la Cina a partire dal 30 e abbiamo avviato un percorso di monitoraggio negli aeroporti. Le decisioni che abbiamo preso nell'immediato è stata quella di attivare delle apparecchiature, i termoscanner, per un controllo generalizzato nei nostri aeroporti. Questo ovviamente richiederà qualche giorno per l'approvvigionamento di queste apparecchiature. Nel frattempo, laddove non ci sono queste apparecchiature, abbiamo deciso, e proprio questa mattina definiremo il numero dei medici e dei paramedici da impiegare, abbiamo deciso l'impiego di personale sanitario che misurerà in tutti i voli in arrivo, ovviamente i voli non nazionali, la temperatura per i passeggeri. Questa è un'importante opera di prevenzione negli aeroporti. Nei porti analogamente si sono intensificate le misure di prevenzione e si sta procedendo a controlli anche per le navi che arrivano da porti europei, quindi un complesso di azioni di prevenzione per il monitoraggio delle nostre frontiere, quelle che si raggiungono con mezzi più veloci. Sì. Una domanda su questo monitoraggio, Borrelli, che in realtà ne tiene dentro due. La prima è questa: il monitoraggio avviene solamente per i voli diretti? Perché insomma, molte persone provengono dalla Cina, ovviamente fanno scalo, e questa è la prima. La seconda: avete tenuto in conto, valutato l'ipotesi non ancora confermata che avvenga una trasmissione asintomatica del virus? Quindi tu vai, misuri la febbre, ma poi in realtà non è detto che la persona il virus non l'abbia contratto. Prego. Allora, la prima cosa è i voli diretti sono stati chiusi e quindi questo monitoraggio riguarda tutti i voli indiretti, quindi anche voli che arrivano dall'area Schengen, che arrivano nel nostro paese, saranno controllati. Per quanto riguarda la trasmissione della malattia da soggetti asintomatici, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che si tratta di una possibilità molto rara e molto invece più probabile la trasmissione del virus da persone sintomatiche. Maria. Borrelli, la situazione, almeno a quanto apprendiamo dalla lettura dei giornali, credo che il ministro Speranza ci stia raggiungendo, vero? Sì, ci sta raggiungendo, dobbiamo aspettare un attimo, prego Maria, vai. No, ci siamo, credo che proprio sia in arrivo. Comunque la situazione sembra, almeno a quanto leggiamo, dicevo, essere un po' più sotto controllo, anche in Cina alcuni di quelli che erano sotto osservazione stanno tornando a casa. Quindi vedo che per esempio in paesi come la Germania si tende a ridimensionare la portata proprio per non creare il panico nelle popolazioni. Noi che cosa possiamo dire per quello che si sa e per quello che ci dicono dalla Cina della situazione là? Allora, quello che noi dobbiamo fare è mantenere alta la guardia. Sicuramente anche il numero dei casi di persone che sono guarite, che sono state dimesse, che continuano ad aumentare, è una cosa positiva, però la parola d'ordine, a mio giudizio, e credo a giudizio di tutti, è mantenere alta la guardia. Questo è il punto principale. Roberto Speranza, ministro della Salute, ci ha raggiunto. Buongiorno Speranza, grazie per aver accettato il nostro invito. Sappiamo che sono ore convulse e complesse, insomma, anche in termini di comunicazione, per la necessità di dare ai cittadini tutte le informazioni delle quali hanno bisogno. Quindi è preso tra questi impegni e quelli poi operativi. Speranza, eccoci, buongiorno. Buongiorno a tutti. Prego Maria. Buongiorno Ministro. Allora, lo Spallanzani, che ha al suo attivo altre ricerche di successo, ha individuato il virus. Come Ministro della Salute, adesso, come prossimo step, lei che cosa si aspetta dal team dello Spallanzani che possa essere, diciamo, utile per sviluppare un vaccino? Ma guardi, intanto credo che a nome del governo, ma penso a nome di tutti gli italiani di questo paese, dobbiamo esprimere gratitudine per questi ricercatori, ma in modo particolare per queste tre ricercatrici che in poche ore, perché voglio segnalarlo, la straordinarietà è che il virus era arrivato allo Spallanzani solo 48 ore prima, sono riusciti ad isolarlo e avendone ora la sequenza possono provare a studiarlo meglio, approfondirne le reazioni, capirlo, insomma, valutarlo in modo più approfondito. E questo è il primo passo, è la prima mattonella per tutto ciò che poi può avere a che fare sia col lato, diciamo così, della cura, sia col lato della prevenzione, quindi l'idea di un vaccino. È chiaro che ci vorrà tempo, ci vorrà ancora lavoro. Noi tra l'altro abbiamo deciso di mettere immediatamente a disposizione di tutta la comunità scientifica internazionale il lavoro fatto in queste ore dallo Spallanzani, in una ottica che credo sia indispensabile. Questa vicenda non è una vicenda che riguarda un paese, non riguarda solo la Cina, non riguarda nessun altro dei paesi del mondo da solo. Abbiamo bisogno che tutti i cervelli del mondo che in queste ore sono impegnati nella lotta alla diffusione di questo virus provino a coordinare le loro azioni, a mettere insieme il lavoro che si può provare a mettere insieme. Quindi noi continueremo sul lato scientifico come Italia, con lo Spallanzani, con l'Istituto Superiore di Sanità, con tutte le altre istituzioni di qualità di cui il nostro paese è dotato, a metterci a disposizione di un coordinamento internazionale. La scoperta di ieri testimonia ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, per me non ce n'era di bisogno, che abbiamo un servizio sanitario nazionale di grande livello e io voglio ringraziare ancora i nostri medici, infermieri, operatori sanitari, insomma abbiamo davvero uno dei migliori servizi sanitari del mondo. Quando io ho insistito anche in manovra di bilancio perché si mettessero più soldi per la sanità, l'ho fatto perché penso che questo valore aggiunto del Paese non possa in nessun modo essere messo in discussione ed essere, diciamo, non valorizzato come di dovere. E in questi momenti si capisce ministro, quanto è importante ministro, avere un servizio sanitario di qualità. Sì. Posso chiederle una cosa? Lei sente una partecipazione davvero corale del suo governo tutto rispetto all'emergenza e so che ha convocato anche i capigruppi dell'opposizione, perché a dire la verità rispetto a un evento così serio dovrebbero passare un po' in secondo ordine tutte le divisioni che invece abbiamo visto continuano a esserci, continuano a esserci anche all'interno della maggioranza, con Italia Viva che mette la sua bandierina sulla prescrizione, per non parlare poi anche delle polemiche con l'opposizione. Insomma, in una parola, lei sente che almeno rispetto a questo evento c'è il senso di responsabilità di marciare tutti compatti o no? Io penso proprio di sì, un grande paese come l'Italia deve fare così. Siamo di fronte, diciamo, a una sfida di carattere internazionale, il governo è unito, è molto coeso su questa vicenda, ne abbiamo discusso in Consiglio dei Ministri, quando io ho firmato l'ordinanza che ha bloccato i voli per la Cina, l'ho fatto, diciamo, avendo sentito evidentemente il Presidente del Consiglio e i ministri del governo di cui faccio parte, e ribadisco, per me non è una battaglia solo del governo, è una battaglia dell'intero paese. In questa partita non c'è, per quanto mi riguarda, maggioranza e opposizione, io sono ministro di tutto il nostro paese, non della maggioranza, quindi ho deciso di convocare per oggi pomeriggio alle 18.30 una riunione con tutti i capigruppo delle forze politiche. Per quanto mi riguarda, di fronte ad una sfida di questa natura, giù le bandierine che spesso sono divisive dei partiti e della politica, e si lavora unitariamente per fare tutto quello che è giusto fare nell'interesse del paese e nella difesa del diritto alla salute della nostra Italia. Ascolti Speranza, la decisione di lasciare a terra i voli diretti da e per la Cina non ritiene che possa essere eccessiva? Insomma, ieri circolavano un po' di voci dalla stessa Cina nelle quali, insomma, quest'idea era valutata negativamente, soprattutto da quello che considerano un paese tutto sommato amico come il nostro. E poi è vero anche dall'altra parte che A, non l'hanno fatto tutti, e B, insomma, le persone dalla Cina ci arrivano lo stesso, ne parlavamo prima con Borrelli, con voli che fanno scalo. Sì, noi stiamo alzando il livello di attenzione e di guardia rispetto a tutti i voli nei nostri aeroporti. Io penso che in questo momento ci sia una priorità, e la priorità non possa che essere la difesa del diritto alla salute previsto dalla nostra Costituzione. E quindi tutto ciò che abbiamo fatto, tutto ciò che stiamo facendo, lo facciamo a partire da questa valutazione. Il governo cinese e la Cina in modo particolare sono a noi vicini, noi consideriamo la Cina un paese alleato, vicino, con cui c'è un rapporto di grande collaborazione istituzionale. Io penso però che il modo migliore per aiutare la Cina in questa fase è esattamente aiutarli a contenere l'avanzata di questo virus, e quindi rivendico la scelta fatta. Io penso che sia una scelta giusta. Non avete avuto speranza, mi scusi, non avete speranza avuto appunto indicazioni dalla Cina, segnalazioni di fastidio, per così dire, per questo provvedimento? No, in queste ore siamo in contatto, diciamo, a livello di ambasciata. Nel mese di novembre è stato qui il ministro della salute cinese, il mio corrispettivo, e io penso, ribadisco, che il modo migliore per aiutare la Cina in questa fase sia limitare il più possibile la diffusione di questo virus. La scoperta, l'isolamento, diciamo così, del virus fatta ieri dallo Spallanzani lo abbiamo subito messo a disposizione di tutta la comunità scientifica internazionale. L'Italia fa la sua parte per provare a vincere questa sfida che, lo ribadisco, non è una sfida solo della Cina, ma è una sfida di tutti i paesi del mondo, e dobbiamo ciascuno per il suo fare la propria parte. Senta Ministro, non soltanto in Italia, dove cito l'esempio del bar vicino Fontana di Trevi a Roma, che ha esposto un cartello in cinese: qui non entrate. Ci sono episodi di stupidità purtroppo comune anche in Germania. Un passante cinese è stato preso a male parole da altri tedeschi che stavano passando. Ci sono episodi di questo tipo generati appunto da cattiva informazione. Che cosa si sta facendo appunto per ridimensionare anche la portata del timore, essere consapevoli è un conto. In aeroporto vedo un sacco di persone con la mascherina, e anche sul treno. Essere consapevoli è un conto, avere atteggiamenti illogici è un altro. No, sono atteggiamenti del tutto irrazionali, che vanno chiaramente isolati e sono sbagliati, e non possono nella maniera più assoluta essere, diciamo così, condivisi. Dopodiché credo che le istituzioni a tutti i livelli, ma non solo le istituzioni, vorrei anche il mondo dei media, desse una mano a spiegare bene come stanno le cose. Noi stiamo facendo tutto il possibile, abbiamo alzato la soglia d'attenzione, come è giusto che sia, perché la vicenda è una vicenda che ha una sua serietà. Però in questo momento in tutta Europa ci sono 21 casi accertati in una popolazione di oltre 500 milioni di persone, quindi stiamo parlando di numeri molto ristretti. In questo momento la stragrande maggioranza dei casi nel mondo è racchiuso dentro una provincia cinese dove c'è la stragrande maggioranza dei casi. Lo stesso governo cinese sta facendo tutto il possibile, anche con scelte che sono sicuramente complicate, come quella di isolare intere comunità. Quindi io penso che l'atteggiamento deve essere di serietà e di rigore da parte delle istituzioni, ma che ogni allarmismo è infondato e che determinati atteggiamenti non sono sinceramente ammissibili, perché non hanno nessun fondamento di tipo scientifico. Spesso riceviamo messaggi al nostro numero verde dove ci si chiede se si ha un indumento che viene dalla Cina, il ristorante cinese. Bene, né i cibi né i prodotti tessili hanno nessun contatto, nessuna connessione con questo virus. Non c'è nessun fondamento scientifico a queste preoccupazioni. Io penso che dobbiamo affidarci alle indicazioni della scienza, che sta facendo la sua parte, ed evitare atteggiamenti che sarebbero incomprensibili. Il governo italiano terrà questo atteggiamento. Grande rigore, siamo dall'inizio, diciamo, un passo avanti anche rispetto alle indicazioni dell'OMS come soglia di sorveglianza, come controllo, diciamo come attenzione, ed è giusto far così secondo me, ma nessun allarmismo, perché abbiamo un grande servizio sanitario nazionale, abbiamo persone di grande qualità che sono al lavoro 24 ore al giorno per garantire la salute ai cittadini del nostro paese. L'ultima domanda, poi so che deve andare naturalmente a una riunione esattamente su questo, Ministro, prima di salutarla, abbiamo motivo di sospettare che i casi in realtà siano molti di più, ossia che la Cina non stia fornendo tutte le informazioni delle quali abbiamo bisogno? No, sinceramente no, c'è stata anche una visita dell'OMS in Cina, c'è una relazione istituzionale molto corretta e penso che dobbiamo in questa fase favorire il più possibile la collaborazione tra istituzioni, tra paesi, quindi io penso che la linea sia quella, diciamo, di lavorare a rafforzare la fiducia reciproca. Tra l'altro questa crisi arriva in un tempo nuovo rispetto al 2003, quando c'è stata l'ultima grande ondata di paura attorno alla vicenda SARS. C'è un'esplosione delle interconnessioni a livello globale e c'è anche un'esplosione della rete, dei social. In questo momento è evidente che questa internazionalizzazione, questa interconnessione è sempre più forte. Io credo nel rapporto tra paesi, credo che tra Cina, paesi europei, Stati Uniti, India, paesi del Sud America, Africa, bisogna lavorare tutti insieme in questa fase, perché tutti insieme possiamo vincere questa sfida. Grazie Roberto Speranza, Ministro della Salute, per essere stato con noi. Buona giornata, grazie ad Angelo Borrelli che ci ha già salutato, capo della Protezione Civile e delegato appunto all'emergenza coronavirus. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo. Mattino. Non sentiamo nulla da paesi fortemente diciamo in contatto con la Cina, tipo tutti i paesi africani in cui la Cina è super attiva per quanto riguarda sia la parte economica che militare. La cosa è un po' strana e non vorrei che poi alla fine ce lo troviamo dietro casa con tutti i problemi del caso. Ma se la Cina avesse dato informazioni tempestive anziché tenere per sé quello che stava succedendo, forse la pandemia si sarebbe potuta evitare se l'avessero detto per tempo. Questo è, forse è meglio dirle le cose e fare il coronavirus, ma bloccare per tempo ed evitare che tanti si contagino. A dire il vero, rispetto a quest'ultimo messaggio, la Cina in realtà di informazioni ne ha fornite e ne ha fornite più di quanto non abbia fatto nel periodo della SARS. Anzi, sono arrivate lodi proprio perché rispetto a quella emergenza, l'emergenza della SARS, nella quale tennero sostanzialmente nascosto tutto finché non furono costretti a, no, a raccontare, beh, insomma, la Cina si è comportata decisamente meglio sotto anche questo aspetto. Anche se il New York Times ha rivelato che c'erano stati degli allarmi lanciati per tempo, anzi proprio da uno dei medici, il quale era invece stato invitato a non avere un atteggiamento antipatriottico, dopodiché invece gli hanno dato ragione. Sì. Comunque, proprio considerando anche quello che ci ha appena detto il Ministro della Salute, io vorrei ricordare che sono già 443 in tutto il mondo le persone dimesse dopo aver contratto il coronavirus e quindi questo, la maggior parte di queste guarigioni si sono registrate in Cina, ma insomma vorrei anche segnalare che l'impatto di questo virus, lo dicono per ora gli scienziati, è meno pericoloso a quanto sembra di quanto non fosse per altri di quanto non apparisse, ma certo. Nelly dalla provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io ho ascoltato la vostra trasmissione dove dicevate che a Roma alcuni locali non permettono alla popolazione cinese di entrare. Bene, da noi c'è un cartello fuori dalle farmacie dove non vogliono far entrare i cinesi. Fuori dalle farmacie, Nelly? Sì. Dove? Montebelluna. A Montebelluna, ci mandi una foto su WhatsApp di No, ma io abito scusi, fuori nelle farmacie non vogliono far entrare ieri eventuali clienti che siano cinesi? Come? E su quale base? Come si permettono? Guardi, questa notizia è arrivata da una ragazza cinese che conosciamo. È entrata, l'hanno fatta uscire mostrando il cartello. Vabbè, verificheremo questa storia, certo, qua, perché mi sembra di capire, Nelly, che non sia nemmeno la sua una testimonianza diretta, quindi insomma con beneficio bisogna del dubbio, avere le prove, ma beneficio se è così, del dubbio per certo, la farmacia di Montebelluna. Marino da Milano, lo segnaliamo, buongiorno, al ministro Speranza, sì, che ha appena detto che questi atteggiamenti non hanno alcuna ragione di essere. Marino da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Uno, volevo ricollegarmi a quello che ha detto la signora, che non sono atteggiamenti, beh, ovviamente quello della farmacia, ma sono comprensibili che uno abbia paura, no? È inutile adesso a dare la colpa a uno che non vuole magari che avere vicino un cinese. Se fosse stato un austriaco che portava un altro virus sarebbe stato uguale. Non c'entrano i cinesi, è la paura di essere infettati, perché le informazioni ne date di tutti i tipi, ma una informazione che possa dare una certa tranquillità non c'è. Ma in realtà è quello, devo dirle la verità, è quello che abbiamo cercato di fare fin dall'inizio, caro Marino, su questo fronte. Poi è chiaro che comunque insomma un po' di timore c'è, però prego, che voleva dirci? Anche se non sbaglio sul sistema sanitario ci voleva sì, dire qualcosa, volevo dire, Marino, appunto, sempre che arriva qualcuno a esaltare il nostro sistema sanitario che è il migliore di tutti, sulla carta sarà anche tra i migliori, ma che funzioni no, perché io 10 giorni fa avevo bisogno di fare un attack, dove ho telefonato, mi hanno detto fino a giugno non c'è nessun posto, per luglio non possiamo ancora fare gli appuntamenti, lo so. Se vuole può farlo a pagamento, ho fatto a pagamento il 21 febbraio a 400 euro, questa è la sanità. Allora, no? lei ha perfettamente ragione e credo che sia chiaro a tutti che da un lato ci sono delle isole di eccellenza. Mi faccia ricordare che poche settimane fa un straordinario chirurgo di Bologna, Alessandro Gasbarrini, è stato il primo chirurgo al mondo a fare un trapianto di vertebre. Le ricercatrici alle quali va davvero il nostro sostegno e plauso, le ricercatrici dello Spallanzani, sono state tra le prime nel mondo, dopo Australia, Francia, a individuare il virus. Quindi il nostro sistema sanitario ha delle vaste isole di grandissima qualità e poi ha dei problemi nei quali ci ritroviamo tutti, perché è successo anche a me che mi dicessero passi tra 2 mesi, tra 3 mesi. Ed è quello sul quale credo che appunto si voglia operare. Però attenzione, il sistema sanitario nella sua globalità, con regioni che sono più efficienti e regioni che lo sono meno, il sistema sanitario italiano è tra i migliori al mondo. E questo, questo è riconosciuto. E non c'entra nulla. Passi avanti anche al sud. E non c'entra nulla. A Palermo vogliono fare un centro all'avanguardia, un centro medico. Cioè, si capisce che la sanità italiana, che parte da un presupposto buono, ha molta strada da riguadagnare in alcune regioni. Sì, sì, sì. E non c'entra nulla come fa. Ma non parliamo male in generale, perché possiamo qualche volta essere anche orgogliosi. E non c'entra nulla, come dice un ascoltatore, lo dico a Marino con tutto il rispetto, insomma, non c'entra un granché, appunto, la qualità dei nostri scienziati con le liste d'attesa. Cioè, sono due cose diverse. Cioè, l'organizzazione, sono due cose diverse, l'organizzazione e la qualità degli scienziati sono due cose diverse, e anche la qualità dei medici. Allora, abbiamo molti ovviamente messaggi sul coronavirus, però Maria, c'è anche un altro tema che sta tenendo banco, dai, un filino di politica facciamolo, va, con sì, poca, questo, poca, con però, questo Simone, tema. Perché... Ma guarda, in realtà a me pare che sulla prescrizione. Aspetta, calma. Sì, andiamo con calma, andiamo con calma. Sentiamo una voce. Sentiamo la voce di Renzi ieri, va. Dico al ministro Bonafede: fermati finché sei in tempo, perché noi in Parlamento votiamo contro la follia che avete fatto sulla prescrizione. Patti chiari, amicizia lunga. Non dite che non ve l'avevamo detto. Noi, tra gli interessi e le poltrone e l'ideale e la civiltà giuridica, scegliamo l'ideale e la civiltà giuridica. Questo deve essere chiaro. E non avete i numeri senza di noi al Senato, forse neanche alla Camera. Rifletteteci bene. E insomma, Matteo Renzi all'Assemblea di Italia Viva, che attacca abbastanza duramente Bonafede, o quantomeno avverte Bonafede. C'è chi intravede in questo dei nuovi scricchioli nella maggioranza e nel governo. Sì. Maria, tu, ma io non la vedo una crisi di governo su questo, no, te lo dico subito. Io penso che abbia bisogno Renzi di far sapere ad alcune categorie di cittadini, di elettori, che Italia Viva è la loro sponda. Così si caratterizza, per esempio, parlando contro la revoca delle concessioni autostrade, oppure come dire, mandando dei messaggi agli avvocati che nella giornata, appunto, dell'apertura dell'anno giudiziario hanno inscenato delle manifestazioni, alcuni mettendosi le manette, eccetera. Diciamo che il messaggio è: state con noi e fateci salire un po' di più rispetto alle percentuali che al momento per Italia Viva sono alquanto modeste. Dopodiché, l'ipotesi che su qualche giornale corre da tempo, ma non solo su qualche giornale, se ne parla anche fuori dalle redazioni, l'ipotesi che si possa fare un governo con tutti dentro, quindi tenendo dentro anche la Lega e cambiando il presidente del Consiglio Conte, potrebbe far comodo a quelli che, appunto, hanno assoluto bisogno di rimanere incastrati sulle poltrone fino al 2023, e con questo, diciamo, con questa grande coalizione sognata si assicurerebbero il percorso tranquillo fino al 2023. Ma mi pare difficile che si reinneschi un meccanismo in cui tutti vanno per l'ennesima volta a fare il governo senza passare dal voto. Mi pare difficile. Sì, pare difficile. Qualche ascoltatore dice, parola d'ordine, difendere il governicchio, la mette un po' giù brutale. Comunque non è una cosa che stiamo facendo noi, stiamo semplicemente dicendo che, insomma, ci sembra difficile che con questo guardando le cose, esatto, non difende è una questione di analisi. Ci sembra difficile che dopo le elezioni in Emilia Romagna, dopo quello che è successo, si arrivi adesso ad un cambio di governo. Una precisazione a tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo: guardate, non abbiamo detto che lo Spallanzani è stato il primo a isolare il virus, abbiamo ripetuto più volte che è stato già isolato in Australia, in Cina, negli Stati Uniti e in Francia, appunto, all'Istituto Pasteur di Parigi. Però, insomma, è comunque quello dello Spallanzani un risultato importante, ottenuto con grande rapidità non appena abbiamo avuto, per così dire, due pazienti affetti al coronavirus a disposizione, e quindi ci sembra un elemento da segnalare. Poi che sia il primo, che sia tra i primi, eccetera eccetera, insomma, poco importa. Un altro ascoltatore sul coronavirus, sentiamo. Carmelo, vai. Ma lo Stato chiude le frontiere e i voli aerei, è una persona che si mette una mascherina oppure che vieta l'ingresso a persone che sono state in Cina è da demonizzare? Fatemi capire, perché non si capisce veramente nulla quando parlate. Nessuno dice questo, nessuno ce l'ha con le mascherine. Simone, prego, prego. Scusami, posso chiarire, visto che sono stata... qualche minuto fa a commentare l'ipotesi che una farmacia, tutto da verificare, che una farmacia impedisca l'ingresso. Allora, ieri ero seduta accanto a due passeggeri cinesi su un aereo. Non è che si può impedire che queste cose succedano. Se uno viaggia, se uno gira, incontra persone di varia provenienza e di varia nazionalità. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo chiudere in casa tutta la popolazione? L'hanno già fatto in Cina, ma lì hanno i loro buoni motivi. Io personalmente, per quel che mi riguarda, quando viaggio metto una mascherina e vedo che tantissime persone lo stanno facendo. Non so quanto funzioni, però cerco di applicare le regole che ci sono state consigliate, lavarsi di frequente le mani, mettere magari una mascherina. Che spesso è un supporto psicologico. Non possiamo frenare la circolazione, la libera circolazione delle persone, no? Mia nuora è cinese, ci scrive Gabriella. Alcuni che noi credevamo amici ci hanno isolato, nonostante lei non vada in Cina da anni. Di sicuro faremo una cernita, e in questo caso evidentemente una cernita degli amici. C'è un po' questa psicosi che sta circolando, insomma. Ma mica tanto, però posso dire, giovedì sera ero a cena in un ristorante cinese a Roma, era pieno, un buon ristorante cinese, ma che significa? Io ho mangiato cinese venerdì, e venerdì l'ascoltatrice ci dice: sono andata a tagliare i capelli dai miei parrucchieri cinesi. Dice, tra l'altro, ho avuto l'occasione di cambiare idea, appunto, nella valutazione. Stamattina abbiamo sentito di nuovo Sergio Brusin del Centro Europeo, appunto, che si occupa di malattie infettive, al quale abbiamo chiesto qualche precisazione. Innanzitutto iniziamo proprio da quella vicenda, la vicenda dello Spallanzani. Cosa vuol dire l'isolamento del virus? Che cosa rappresenta? Sentiamo Brusin. È molto importante per due motivi. Se si ha il virus in laboratorio, si possono migliorare di molto i modi in cui si diagnostica la malattia e si conferma la malattia. Questo è una ricaduta veramente veloce e importante. L'altro è per un motivo di studio: con il virus in laboratorio e con la possibilità di replicarlo, si possono cominciare gli studi per vaccini o terapie antivirali, che senza avere il virus vivo in casa non è possibile fare. Altre informazioni importanti: nelle scorse ore sono circolate, tanto su internet quanto sui grandi giornali e anche sulle pubblicazioni scientifiche, alcune indicazioni su quante persone avrebbe effettivamente raggiunto il contagio. Perché cosa succede? Noi abbiamo un certo numero di casi accertati. Sono le persone che si sono fatte ricoverare o sulle quali sono state effettuate delle verifiche. Ma è possibile, visto che questo coronavirus, in gran parte dei casi, nella stragrande maggioranza dei casi, ha dei sintomi che sono molto simili ad una banale influenza e passa come una banale influenza, ossia dopo pochi giorni di febbre, raffreddore e tosse, alcuni modelli matematici stimano che in realtà la diffusione sia molto più ampia di quella che si immagina, insomma nell'ordine delle decine di migliaia di persone, quantomeno in Cina. Sentiamo Brusin proprio su questo. Le cifre che ho visto pubblicate in giornali scientifici sono piuttosto credibili. Deve prendere in considerazione il fatto che noi stiamo parlando adesso di casi confermati. Per confermare un caso bisogna avere la persona in ospedale, bisogna fare il test, bisogna aspettare i risultati dai test. Quindi il numero di 17.000 che vediamo adesso si riferisce in realtà a una realtà che avevamo qualche giorno fa. Nel frattempo sicuramente i casi sono aumentati. In più non sappiamo quali siano le capacità di testare che ci sono in Cina, quindi può anche darsi che non tutte le persone che hanno sintomi vengano testate. Bisogna stare un pochino attenti, perché tutti quanti questi modelli matematici no, hanno sempre un range di possibilità. No, sono ragionevoli, sono molto ragionevoli. E insomma, comunque, ancora Brusini, no, ancora Simone, Brusini. Se posso sì, dire, prego. Posso parlare? Prego. Grazie. Una cosa va detta, sono 146 i casi accertati al di fuori della Cina, in tutto, per ora. 146 casi confermati, 14 sono quelli nuovi, in 23 paesi. E al momento si registra una sola morte. Migliaia sono invece i casi accertati, come diceva giustamente il nostro ospite, in Cina. Però fuori dalla Cina, ragazzi, stiamo parlando di 146 casi in 23 paesi. Non è corretto, come giustamente facevano notare tutti i nostri ospiti oggi, fare un eccesso di allarmismo. Sì. Dopodiché, quanto andrà avanti? Questa è un'altra storia. Sì, è da vedere. Molti dicono che andrà avanti a lungo. Ancora questione mascherina. Sappiano i nostri ascoltatori che in realtà la mascherina serve soprattutto per non contagiare gli altri, non serve per proteggersi. È essenzialmente a questo che serve. Un altro ascoltatore, via. Ma questi ricercatori dello Spallanzani di cui tutti si riempiono la bocca, il ministro Speranza potrebbe dire che il 2 gennaio li ha assunti, perché prima erano co-co-co ancora, a tempo determinato, con un contratto di 1.300 euro come un infermiere? Ci torneremo dal ministro Speranza sì, nelle prossime settimane, sì, perché questo tema dei ricercatori è un grande tema. Tra l'altro, una delle tre, come sapete, è una precaria da 1.500 euro al mese. Sì, ma pare che ora la stabilizzeranno. Improvvisamente, pensa. Aver individuato strano. Il virus e aver trovato lavoro. Improvvisamente. Cara Maria, ci risentiamo domani, 8 a e 20. Domani, ciao a tutti. Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrero in redazione, Margherita Inea, Francesco Ceraffo, i nostri autori. Noi ci si risente invece domani mattina alle 6.30 da Simone Spezia. Una buona giornata e una buona settimana. Ciao.